A criticare siamo capaci tutti, ma nel momento in cui ti rendi conto che c'è bisogno di una critica vera, pensi di possedere gli strumenti perché questa critica possa essere una critica costruttiva? Qualche risposta l'ho trovata in questo libro di Daniel Goleman, Leadership Emotiva. Forse più famoso è il suo primo libro della serie Intelligenza Emotiva. Libri assolutamente fantastici, specialmente per chi ha un rapporto continuo con le persone e deve relazionarsi con molti. Vi lascio i link in descrizione. Goleman dice che sono indispensabili 4 punti per criticare nel modo giusto. Lui ne parla soprattutto in relazione al mondo del lavoro, ma credo che i suoi consigli possano applicarsi a qualunque relazione sociale, nella famiglia, nella coppia, nell'amicizia, in qualunque ambito. Prima indicazione: se devi criticare, fallo di persona. Certo, è molto più comodo, più semplice farlo con un messaggio, magari con un messaggio vocale. Perché criticare è comunque qualcosa di scomodo, qualcosa che ci espone ad una tensione emotiva molto forte. E allora farlo a distanza, con un messaggio, ci preserva un po' da questa tensione. Ma se vogliamo che le critiche siano veramente efficaci, dobbiamo farlo faccia a faccia. E perché, tra l'altro, a faccia si dà la possibilità all'altro anche di interagire, di rispondere, magari di chiedere un chiarimento. Credo che criticare di persona, oltre ad essere un grande atto di coraggio, sia veramente indispensabile perché la critica sia veramente efficace. Secondo, cerca di essere il più possibile specifico. Spesso le critiche nascono da uno scatto di nervoso, di impazienza e magari assumono questa veste. Sei sempre il solito. Quante volte te lo devo dire che non devi fare così? Accidenti, hai proprio fatto un disastro. Espresse così non sono neppure critiche, sono soltanto scatti d'ira e non servono a nulla. Supponiamo che sul lavoro tu abbia la responsabilità di un gruppo di persone e che tu ti sia reso conto che qualcuno dei tuoi colleghi non sta lavorando nel modo giusto. Se si sentirà semplicemente dire che sta sbagliando, non solo non capirà come migliorare, ma facilmente si sentirà anche depresso perché non valorizzato e neppure corretto. Ecco perché è così importante essere specifici. Ad esempio, potresti dire così: stai facendo questo lavoro e nel complesso mi pare che stia andando bene, però tieni conto che se questa cosa la fai in questo modo potrebbe succedere questo. Prova magari a farla in quest'altro modo, magari le cose potrebbero essere migliori. Potresti provare a fare qualche tentativo? Magari ne riparliamo tra un paio di giorni. Immaginate cosa potrebbe succedere nel rapporto di coppia se si desse spazio ad un atteggiamento di questo tipo piuttosto che ad esprimere semplicemente la rabbia. Con questo esempio ho già introdotto il terzo punto, altrettanto fondamentale: non limitarti alla critica, ma prova a suggerire anche una soluzione. Se ti limiti soltanto a criticare, seppur in modo molto specifico, potresti lasciare l'altro in uno stato di stallo, di frustrazione, che a lungo andare, tra l'altro, potrebbe anche demotivare. Suggerendo una soluzione, invece, aiuterai la persona ad intuire che può esserci un'altra strada, un altro modo, e quindi le darai speranza. Non soltanto l'avrai illuminato sulle cose che non vanno, ma l'avrai anche proiettato in avanti in modo positivo. Quarto punto: cerca di essere sensibile. Renditi conto che qualunque cosa dirai, comunque quella cosa avrà un impatto molto forte sulla persona che lo riceverà. Non è interesse di nessuno creare freddezza, lontananza, risentimento. Come direbbe Papa Francesco, un buon leader dovrebbe essere capace non di innalzare muri, ma di costruire ponti. Oggi sul lavoro è estremamente importante cercare di costruire un ambiente umanamente vivibile e innumerevoli studi riportati da Goleman vanno tutti nella stessa direzione. Quando un buon leader riesce a costruire un ambiente positivo, non soltanto le persone vivono meglio nell'ambiente di lavoro, ma anche la loro produttività ne è enormemente accresciuta. La sensibilità e l'attenzione all'altro pagano anche in termini di risultati. Era soltanto un assaggio, ma sono estremamente sicuro che se leggerete i libri di Goleman ne rimarrete super entusiasti. Allora, la prossima volta che dovrai formulare una critica, e mi raccomando, ricordati di questi 4 punti, perché essere intelligenti è una gran cosa, ma ciò che fa la differenza è essere emotivamente intelligenti.